Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Uno studio pubblicato sul Journal of the National Cancer Institute spiega perché gli uomini si ammalano di cancro più delle donne e hanno una prognosi peggiore. A Obiettivo Salute il commento del professor Roberto Recchia, direttore scientifico dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Per la prima volta in questo articolo, fatto su un'indagine di oltre 9.000 pazienti, viene dimostrata una correlazione fra una cattiva regolazione del cromosoma Y, che è quello legato e che caratterizza il sesso maschile, e la possibilità che questa regolazione possa determinare un aumento dell'incidenza dei tumori. Questo va nella direzione di una giustificazione genetica a quello che viene definita la medicina di genere, che gli uomini e le donne possono avere delle sensibilità diverse o anche delle terapie diverse in ambito oncologico e non solo, è noto da tempo. Qui si apre un settore nuovo di ricerca che va alla scoperta di meccanismi genetici e molecolari che possono supportare questo. Naturalmente l'alterazione cromosomica di per sé può essere poi influenzata da altri fattori, gli stessi autori definiscono come fattori confondenti, quindi in qualche misura influenzanti sia l'invecchiamento, sia l'abitudine al fumo, sia l'inquinamento, e questo naturalmente non fa altro che confermare l'importanza anche delle influenze ambientali e delle attitudini di vita sulla possibilità di sviluppare il tumore. Diabete, obesità e disturbi mentali potrebbero avere come denominatore comune l'insulina, e questa è l'ipotesi di un progetto europeo a cui partecipa anche l'Istituto Superiore di Sanità. A Obiettivo Salute il commento del professor Simone Macri, ricercatore presso il Centro di Riferimento per le Scienze Comportamentali e la Salute Mentale dell'Istituto Superiore di Sanità. Siamo tutti molto felici di poter partecipare a questo progetto che vuole studiare appunto il ruolo dell'insulina in una serie di disturbi. Molti di noi hanno familiarità col fatto che alterazioni nel funzionamento dell'insulina e di come il corpo reagisca all'insulina stessa possa portare dei disturbi quali obesità, disturbi metabolici, diabete di tipo 2, un po' di grasso addominale, alterazioni della pressione. Quello che stiamo indagando in questo momento e che indagheremo per i prossimi 5 anni è la possibilità che l'insulina abbia un ruolo anche nei disturbi mentali, quale ad esempio l'Alzheimer. Per quest'ultimo effettivamente è già stato identificato un ruolo dell'insulina nella sua insorgenza. Però oltre all'Alzheimer studieremo altre patologie, quale ad esempio i disturbi ossessivo-compulsivi e disturbi della rigidità della condotta. Bene, per oggi è tutto, tra poco in diretta Facebook insieme ad Alberto Fontana, presidente dei centri clinici Nemo, e Marco Rasconi, presidente nazionale UIL DM, scopriamo insieme il ruolo della quotidiana normalità nella promozione del benessere delle persone con disabilità. Vi aspetto, non mancate, mentre la programmazione di Radio 24 prosegue con Melog. Buona giornata da Nicoletta.